Salva Danaio di Deborah Rosciani. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Quante trasmissioni, molti lo ricorderete, qualche anno fa, dedicate all'Argentina protagonista di una bancarotta che suscitò grande clamore internazionale, che coinvolse direttamente migliaia di risparmiatori italiani, 450.000. Non ci vorremmo mai credere, ma anche per le conseguenze di quel default di 11 anni fa, Buenos Aires è tornata recentemente sotto i riflettori della comunità internazionale. Il paese, che per una serie di vicende finanziarie non ha potuto onorare i suoi debiti sottoscritti da milioni di investitori sparsi in tutto il mondo, come vi abbiamo raccontato molte volte, ha ristrutturato il suo debito due volte. In una prima fase gli italiani lo respinsero in massa, la seconda volta invece due anni fa aderirono in parecchi. Ma va ricordato che questa ristrutturazione appunto del debito argentino impose anche delle forti perdite agli aderenti. Per questo vi si opposero molto ferocemente alcuni fondi di investimento, e a questo aspetto leghiamo proprio la novità che è arrivata negli ultimi giorni. Una sentenza di un giudice statunitense, si chiama Thomas Griesa, la settimana scorsa ha condannato l'Argentina a pagare entro il 15 dicembre 1 miliardo e 300 milioni di dollari ai cosiddetti fondi avvoltoi che ancora detengono i Tango Bond e che non hanno aderito alla ristrutturazione del debito del 2005. La Corte d'Appello americana però ha dato più tempo a Buenos Aires rigettando questa richiesta, ma in ogni caso in molti si sono subito affrettati a parlare di Argentina di nuovo sull'orlo del baratro e quindi di tante altre problematiche appunto internazionali che ne potevano seguire. Noi stamattina ritorniamo sulla situazione perché, come potete immaginare, la questione ha di nuovo fatto balzare sulla sedia tutti coloro che ancora hanno in mano i titoli argentini. Molti italiani che non hanno aderito appunto alla ristrutturazione di cui vi abbiamo tante volte raccontato e che in questi anni invece hanno deciso di intraprendere strade diverse. Chi ha fatto causa alla banca, chi invece ha aderito all'arbitrato internazionale promosso dalla Task Force Argentina dell'ABI. Allora stamattina abbiamo rimesso in piedi una trasmissione su questo e abbiamo messo insieme anche molti ospiti che questa faccenda la conoscono molto bene. Roberto Darini, Il Sole 24 Ore, che per una volta tanto non ho a Buenos Aires ma qui a Milano con me. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Corrispondente appunto dell'Argentina per circa 5 anni, me lo raccontava poco fa, per Il Sole 24 Ore. Adesso guarda con un po' più di distacco, ma non tanto, a quello che avviene in quelle terre che comunque ama moltissimo. Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina. Presidente, buongiorno, bentornato. Buongiorno signora Rosciani, mi fa piacere risentirla. Anche a noi fa piacere risentirla, pensavamo di poterla lasciare insomma almeno per qualche anno in tranquillità e di poterla interpellare solo se da Washington ci fossero state delle notizie positive su questo arbitrato internazionale, invece da là ancora un po' tutto tace, per cui stamattina sarà anche l'occasione per capire cosa sta succedendo da quel versante. Chiaramente ci serve anche un legale di un'associazione dei consumatori, l'avvocato Paolo Fiorio, legale del Movimento Consumatori appunto. Avvocato, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. su Facebook il nostro profilo è salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Avete tante modalità per dire la vostra su questa vicenda che ancora indispettisce molto anche coloro che magari non sono stati direttamente coinvolti, che però hanno guardato con un po' così di perplessità al comportamento argentino degli ultimi anni. Un paese che però tutto sommato, dopo aver fatto quel default del 2011, Roberto, cominciamo subito allora magari a raccontarla brevemente la storia economica dell'Argentina di questo decennio. Dal 2001 in avanti questo paese è tornato a crescere enormemente e per fortuna, perché in quella ristrutturazione del debito che ha proposto nel 2005 aveva appunto anche proposto a molti risparmiatori dei titoli legati alla crescita, ed effettivamente coloro che aderirono tutto sommato sono riusciti anche a riguadagnare qualcosa in questi anni. Non per tutti è successo così, però a qualcuno è andata anche bene. Sì, e come tu dici, Deborah, dopo questo devastante default che hanno avuto a dicembre del 2001, l'economia ha potuto riprendersi grazie a una svalutazione del peso della loro moneta. Hanno potuto fare ciò che alla Grecia riesce più difficile, perché lei dovrebbe abbandonare una moneta comune e quindi questo causerebbe un problema a livello europeo. Invece l'Argentina, non appartenendo a una unione monetaria, non appartenendo a un'unione commerciale, ha potuto svalutare con facilità e quindi la sua economia è ripartita, complice anche un aumento dei prezzi delle materie prime. Ha potuto beneficiare di lunghi anni di crescita molto sostenuta, ritmi quasi cinesi, e quindi questo è stato un fatto interessante. Chi ha aderito alle offerte, i risparmiatori che hanno aderito alle offerte, hanno portato a casa titoli che erano agganciati al tasso di crescita dell'economia argentina, e a loro è andata molto bene perché hanno avuto ritorni decisamente interessanti. È stato parzialmente vero anche per coloro che hanno aderito alla seconda offerta. Naturalmente, ecco, rimane, va ribadito che un default è sempre un default, quindi è stato traumatico per i 450.000 risparmiatori italiani, inutile ribadirlo, trovarsi di fronte a un paese in cessazione di pagamenti. Questo, diciamo, sono le prime due cose che possiamo dire. Ecco, allora però andiamo avanti, cerchiamo di arrivare subito al punto dei giorni nostri, alle motivazioni per cui questo giudice Thomas Griesa, che per la verità è più volte stato evocato in questa vicenda in questi anni, adesso è intervenuto con questa sentenza piuttosto clamorosa che accoglie questo ricorso fatto da questi fondi di investimento, che hanno sicuramente un comportamento non da piccolo risparmiatore. Non è che hanno fatto questo ricorso perché devono proteggere del risparmio faticosamente custodito in un salvadanaio, ma hanno sicuramente altri interessi. Questi fondi di investimento acquistarono i titoli argentini quando appunto precipitarono parecchio nella fase della bancarotta, e adesso chiaramente non ebbero nessun interesse ad aderire alle ristrutturazioni del debito argentino, piuttosto pensarono: perché non facciamo causa al paese, che se appunto dovesse venire accolta, naturalmente ci dovesse dare ragione, potremmo ottenere tutto quello che abbiamo investito e magari con qualcosa in più. Ecco, come siamo arrivati ai giorni nostri? Siamo arrivati così, come tu hai descritto, questo giudice Thomas Griesa di 82 anni, una vecchia ruggine, con la presidenta argentina Cristina Fernandez de Kirchner, una questione personale, dicono a Buenos Aires, perché lei aveva detto: non ti pagherò neanche un peso, poi anche forse qualche parolaccia di troppo, e quindi nel dibattito politico argentino era stato apostrofato come un rincoglionito il vecchio giudice. Ah, ecco, così, per utilizzare una metafora. Ecco. E questo naturalmente non ha provocato poi una serie di reazioni. Ecco. Ciò detto, il giudice si è attenuto in termini strettamente giuridici a ciò che il diritto sancisce, e quindi ha dato ragione, come diceva Deborah Rosciani poco fa, a un gruppo di hedge fund, fondi speculativi, che chiedevano all'Argentina di poter ottenere il 100% dei vecchi tango bond finiti in default. Questo naturalmente avrebbe delle conseguenze molto gravi, avrebbe delle conseguenze gravi, perché si profilerebbe, come molti osservatori hanno fatto notare nei giorni scorsi, primo tra tutti domenica Guido Rossi, la persona forse più autorevole, sulle nostre pagine, in prima pagina sul Sole 24 Ore, si è creato sostanzialmente un vuoto legislativo in termini di finanza internazionale, e quindi il passo successivo sarebbe una gravissima distorsione che potrebbe portare a un default del paese, con conseguenze terribili per tutte, quindi per tutti, non solo per i risparmiatori, persino tutti i risparmiatori che hanno già sottoscritto l'accordo dovrebbero ritornare al punto zero, quindi un inferno. Al tempo stesso si profilerebbe un default per l'Argentina, quindi una situazione drammatica, sicuramente non augurabile e paradossale, dato che ora l'Argentina sta molto meglio rispetto a 10 anni fa. Infine, l'Europa certamente non avrebbe bisogno di un default di un paese latinoamericano con probabili contagi, con tutte le instabilità che conosciamo, dalla Grecia alla fiacchezza dell'Europa, che in questo momento è in crisi profonda, non solo economica ma anche politica, e non ultimo, gli Stati Uniti non avrebbero certamente piacere. Allora, tanto per dare anche qualche cifra, nella sostanza Griesa ha detto l'Argentina deve rimborsare $1.3 miliardi ai detentori dei Tango Bond che hanno rifiutato la ristrutturazione. Questa è la cifra che andrebbe a questi fondi a volto. E questa sentenza però di Griesa, che comunque è temporaneamente congelata, appunto perché chiaramente l'Argentina ha fatto subito ricorso, congelata non per tantissimo, per qualche mese, a questi 1.3 miliardi si aggiungono anche appunto le cedole indicizzate al PIL in scadenza sempre il 15 dicembre, che ammontano circa 3 miliardi, ed è qui che entrerebbero in gioco i detentori appunto delle obbligazioni ristrutturate. Per cui, se questa sentenza fosse stata subito da applicare, nella sostanza il 15 dicembre anche coloro che avevano aderito alla ristrutturazione non avrebbero potuto ottenere questa tranche di rimborso, per cui da qui tutte le implicazioni. Avvocato Fiorio, vengo a lei perché, come ci anticipava Roberto Darin, il principio giuridico che ha fatto valere il giudice Thomas Griesa è quello del pari passo, che significa che gli obbligazionisti vanno tutti trattati nello stesso modo. Così, in termini concettuali, generali, potrebbe anche essere un principio lodevole ed è assolutamente legittimo, però non possiamo certo considerare la nostra amica Rosanna Savian, che è un'ascoltatrice che mi scrive tanto, domani fa il suo compleanno e mi ha scritto: Debora, dammi qualche buona notizia con questa puntata, speriamo, non so, per adesso navighiamo ancora un po' su situazioni piuttosto nebulose e incerte. Quella condizione di una piccola risparmiatrice non può sicuramente essere quella di un fondo speculativo, avvocato Fiorio. No, certo, il principio che è stato richiamato dal giudice Griesa è un principio elementare, è quello dell'uguale trattamento, cioè tutti gli obbligazionisti devono essere pagati lo stesso modo, non può il debitore differenziare i pagamenti. Però qui è stato interpretato in una maniera particolare, perché mentre gli obbligazionisti del debito ristrutturato vengono pagati sulla base di quello che è stata la ristrutturazione, quindi sicuramente in misura minore rispetto a quelli che erano i titoli originari, i fondi speculativi, i fondi avoltoi, sulla base di quella sentenza dovrebbero essere pagati al 100%. Questo determina un problema, in particolare perché uno degli aspetti più critici di questo provvedimento è se il giudice americano, oltre ad imporre il pagamento all'Argentina, possa sostanzialmente vietare alle banche che si occupano dei pagamenti da parte dell'Argentina di disporre i pagamenti nei confronti degli obbligazionisti ristrutturati, se non fanno altrettanto nei confronti dei fondi speculativi. E per questo si è parlato di default tecnico, però la parità di trattamento in questa situazione a noi pare che sia valutata in maniera oggettivamente molto critica, perché gli uni hanno aderito ad una proposta che peraltro è fondata anche su delle leggi argentine. Non stiamo parlando sicuramente di una situazione felice, perché c'è un default, c'è un fallimento, e siamo in una situazione, come si accennava anche prima, è stato ricordato l'intervento di Guido Rossi di qualche giorno fa, siamo in una situazione particolarmente critica, perché siamo in un vuoto legislativo, come in questa, come in molte altre vicende. Tutto ciò che ha a vedere con le dinamiche globali dell'economia non ha un quadro normativo sicuro, e lasciare tutto all'aspetto contrattuale del pagamento dei titoli disposto da un giudice di uno Stato straniero può avere, come ha in questo caso, degli effetti a catena gravissima. Allora, io poi mi rendo conto tra l'altro che questa è una faccenda talmente complicata, lo avevamo ben compreso anche nelle puntate decine che abbiamo fatto tra il 2001, il 2004, il 2005, però vale la pena ritornarci un po', perché chiaramente ancora sono in molti i coinvolti in questa vicenda e che ci hanno anche perso la salute per seguire appunto tutti i comportamenti argentini di questi anni. Però è anche utile conoscere un po' come possono funzionare le bancarotte dei governi, dei degli stati, perché quando qualche anno fa ci dicevamo che avevamo la totale convinzione che uno stato non fallisce perché naturalmente si fa di tutto per proteggerlo, l'Argentina, come sapete bene, ci ha insegnato altro. Abbiamo avuto poi nostro malgrado anche il drammatico caso greco vicino a noi, e tanti altri stati in Europa sono in difficoltà. Naturalmente speriamo di non vedere mai situazioni di questo tipo. L'Argentina sicuramente fa storia a sé, però è sicuramente anche interessante un po' raccontare di nuovo quello che sta accadendo in questo paese. Non voglio far iniziare il presidente Stock, perché vorrei dargli modo appunto di argomentare bene la situazione dell'arbitrato internazionale, qual è la fase in questo momento, visto che è da molto che non ne parliamo. Allora ho ancora un minuto di tempo, ne approfitto ancora dell'avvocato Fiorio per chiedergli se adesso non avremo sicuramente delle cifre, ogni associazione di consumatori ne radunò per sé sicuramente decine di migliaia. Voi quanti risparmiatori in questo caso avete seguito, e se non ricordo male so che voi avevate prevalentemente suggerito di aderire alla ristrutturazione del debito appunto di Buenos Aires. Certo, noi abbiamo seguito diverse centinaia, se non migliaia, di risparmiatori in tutta Italia. Diciamo che il servizio che l'associazione ha fornito ai risparmiatori è stato sia quello di informazione sulle proposte, ma soprattutto l'attività di recupero nei confronti dei soggetti che si erano rivelati responsabili dell'acquisto dei titoli, cioè ovvero le banche, con le azioni di recupero degli investimenti. Su questo noi abbiamo sempre detto che la soluzione più immediata era quella di iniziare a recuperare quello che l'Argentina dava, e allo stesso tempo però andare a richiedere alle banche che avevano venduto i titoli in maniera scorretta il risarcimento dei danni. E le sentenze su questo sono state, devo dire, in questi anni una valanga a favore dei risparmiatori. Non avevate suggerito di intraprendere l'iniziativa dell'ABI di Nicola Stock di aderire appunto alla Task Force Argentina, e quindi di fare causa presso questo tribunale internazionale, chiamiamolo così, a Washington, fare questo arbitrato internazionale presso l'ICSID? No, ad oggi voi no. Abbiamo avuto, ad oggi, bisogna vedere il futuro, ad oggi abbiamo avuto ragione, perché chi ha convertito i vecchi titoli con i nuovi o li ha venduti e ha recuperato qualcosa o ha un rendimento continuo, o comunque dei titoli che, salvo imprevisti, dovrebbero essere poi rimborsati alla scadenza. Ma comunque molti che hanno avuto bisogno di recuperare della liquidità in questi anni li hanno potuti vendere, e i titoli comunque un minimo di valore l'hanno sempre tenuto. Poi ci arriverà qualche citazione per i diritti che stiamo di cui stiamo facendo ovviamente ogni volta un grande utilizzo delle canzoni di Astor Piazzolla per accompagnare queste puntate dedicate all'Argentina. Per la verità non ci capitava da molto tempo, le ultime puntate a questa vicenda le abbiamo dedicate un paio di anni fa, quando era in corso l'ultima possibilità di aderire alla ristrutturazione del debito argentino, e probabilmente, Roberto, non so, non mi ricordo se eri ancora a Buenos Aires quando venne a fare visita in Italia il ministro dell'economia Hernán Lorenzino. Eri qua o eri là? Eri là in Argentina. Ci siamo veramente divertiti molto quel pomeriggio, l'ho detto più volte, ci sembrava di essere finiti in una telenovela, perché venne accompagnato da un codazzo di personaggi un po' improbabili. Detto immagino. Questo comunque lo sponsorizzò a mille quell'operazione, e in molti appunto aderirono. Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina, ancora buongiorno e ben ritornato. Buongiorno. Tantissime le puntate fatte con lei tanti anni fa, e lei però è andato avanti appunto con l'ABI, con l'iniziativa che ha come dire scoraggiato gli investitori italiani nell'adesione appunto alla ristrutturazione del debito di Buenos Aires, perché l'ABI invece si è fatta portatrice di un'altra iniziativa, questa di questo ricorso enorme a questo organismo internazionale che ha sede a Washington, si chiama ICSID. L'iniziativa è un arbitrato internazionale, e tra vecchi risparmiatori che avevano in mano Tango Bond circa 450.000, voi adesso state rappresentando presso questo tavolo circa 53.000 detentori appunto di obbligazioni argentine. Ci fa un punto della situazione, presidente? Sì. E che cosa pensa anche di questa ennesima puntata di questa lunghissima storia? Se lei permette, vorrei dare chiarezza e trasparenza ai nostri ascoltatori, perché l'Argentina, non i dati economici che espone non sono assolutamente distorti, tant'è vero che l'IMF ha dato fino al 17 dicembre modo di fornire dati accettabili che possono essere esaminati come tutti gli altri stati che appartengono e sono membri del Fondo Monetario, e c'è stata anche quella disputa tra la Presidente Kirchner e il Direttore Generale del Fondo Monetario, che se questi non dovessero arrivare ci sarà cartellino rosso. Quindi l'Argentina è anche il primo caso di un default che è ancora in essere, ci sono stati negli ultimi 15 anni decine di stati, ma l'Argentina ha adottato una strada della ristrutturazione non negoziata e unilaterale. Quando si dice anche che nel 2005 e nel 2010 gli italiani sono poi entrati in queste offerte, ma non dobbiamo dimenticare che è stata fatta, credo il dottor Darin lo ricorda bene, una legge Serroglio, perché in quel momento le entrate nell'offerta erano scarse, per cui questa legge diceva chi non entra adesso non avrà altre offerte e quindi la carta, come dicevano anche i ministri argentini, era poi carta straccia. Ecco, questo bisogna dirlo, perché bisogna mettere chiarezza sull'Argentina e sulla bontà dell'Argentina, perché come vorrei così ribadire, le battaglie sul recupero di questi importi si vedranno poi alla fine, perché non ci sono solo questi hedge fund, ma Darin avrà sicuramente visto nel Clarin di ieri che un studio di avvocati sta rappresentando per 200 milioni di dollari circa 100 retailers, di cui una maggior parte italiana, che in questa causa e sta anche provvedendo a fare un amicus curiae per la Corte d'Appello. Vorrei anche chiarire che il giudice Grisè non è come lo si dimostra, perché ha anche dato diverse cause in favore dell'Argentina. Naturalmente questa che non è a favore l'Argentina si è rivolta contro, e non è solo il giudice Grisè che ha stabilito questo, ma anche la Corte d'Appello che ha accettato la sua sentenza, tranne che voleva poi delle precisazioni che Grisè ha dato, perché fra poco c'erano questi pagamenti da fare per i dividendi, e la Corte d'Appello ha preferito dare ancora del tempo all'Argentina. Quindi mi pare fino al 27 febbraio, il 17 febbraio. Ora, questo significa 27. Che se dovessero perdere, l'Argentina si ritroverà allo stesso punto di oggi, mm-hmm. perché ci saranno ulteriori pagamenti. Questo, scusi, ma per essere chiari per i nostri ascoltatori. Benissimo. Tornando invece alla domanda appunto esatto. iniziale. Dunque, il ricorso all'ICSID sta adesso alla parte finale, perché noi nei nostri comunicati lo diciamo, ci sono state delle ostruzioni che l'Argentina ha fatto in tutti i modi, non ultimo il pagamento delle fees, delle spese che questo processo arbitrale contiene, le ultime spese l'Argentina non le ha pagate, cioè il suo 50%, questo forse... Niente, proprio un vizio questo genetico. Forse è anche un modo di eventualmente bloccare il procedimento, perché naturalmente se non vengono pagate le spese gli arbitri non vanno avanti. No, ma ha utilizzato il termine giusto, ostruzionismo, per bloccare evidentemente l'avanzamento allora, dei lavori. Allora noi abbiamo pagato anche il 50% degli argentini appunto per andare avanti in questo procedimento, perché sennò si fermava. Quindi questo, naturalmente questi 50% che paghiamo ritengo che non saranno persi, perché questi gli argentini poi alla fine della vertenza li dovranno pagare con le altre cose che ovviamente il collegio arbitrale deciderà. Ecco, ma queste sono state le ultime notizie che avete avuto da Washington, dall'arbitrato, il fatto che per esempio non paga le sue commissioni l'Argentina, perché noi dobbiamo sullo pagare stato del ricorso invece, ecco, quando potremo avere delle notizie? Dunque, ricorso va avanti perché l'ultima fase adesso, la fase di merito, questo l'abbiamo anche messo nel nostro sito, il primo ottobre noi abbiamo fatto la nostra memoria come è stato convenuto, gli argentini la devono dare una risposta il 15 dicembre di quest'anno, poi ci sarà una contromemoria nostra e quella argentina, uh-huh. E verso luglio ci dovrebbe essere l'udienza finale e poi la sentenza. Presidente Stock, tra l'altro io volevo anche un po' riprofilare quei 53.000 che hanno scelto appunto di continuare il percorso del ricorso all'arbitrato internazionale, perché tutto sommato fra questi ci sono sicuramente risparmiatori che magari così proprio per convinzione personale irriducibile hanno detto no, io voglio tutto quello che ho investito e quindi non accetto la ristrutturazione per questo motivo. Ci sono però anche persone che loro malgrado hanno dovuto scegliere per forza questa strada, mi riferisco in particolar modo anche, tra questi ci sono molti che continuano a scriverci ancora a Salvadanaio, italo-argentini che non avevano l'opportunità appunto di fare, no, gli italo-argentini forse non potevano fare ricorso all'arbitrato internazionale se non ricordo male. Quindi non è una delle regole previste. Insomma. E chi sono allora questi 53.000? 53.000 sono cittadini italiani, dimostrabili che siano cittadini italiani, che non hanno risieduto più di 2 anni in Argentina mai, e che possono provare questo con il loro passaporto o carta d'identità, oppure con il certificato elettorale, oppure con altri documenti che provano intanto la sicurezza della loro cittadinanza, perché questo è un presupposto per poter, perché per dare una chiarezza, noi facciamo un ricorso al Tribunale ICSID perché è un ricorso sul trattato bilaterale italo-argentino che protegge gli investitori nei loro investimenti nei reciproci paesi. E questo ICSID è stato firmato da 145 paesi la convenzione e quindi la sentenza dell'ICSID e poi come se fosse la sentenza del più alto tribunale di questi 145. Quindi qualora fosse favorevole per esempio a questi 53.000 italiani, beni argentini in questi 145 paesi senza dover ricorrere ancora a una sentenza del paese. No, voglio dire, esisterebbe anche un'altra camera, un'altra istanza da fare qualora fosse favorevole una pronuncia dell'ICSID in confronti appunto degli italiani, ecco, sarebbe definitiva. Assolutamente no, perché questo è una sentenza che noi possiamo subito cercare di liquidare, ovviamente, perché l'investitore italiano vuole vedere poi che questa sentenza porti anche la liquidità che lui attende. Certo. E quindi lì dovremmo poi ricorrere presso 145 paesi se l'Argentina non dovesse far fronte, bloccando tutti i beni che l'Argentina potesse avere o avrà in questi paesi. Questo significa, mi scusi ancora, sì, certo, che l'Argentina, non, se questo fosse come sta avvenendo, non può ricorrere a finanziamenti esteri, tant'è vero che in Argentina, da quando è uscito praticamente dal 2002, l'Argentina non ha più finanza che entra in non paese. Ha avuto più accesso ai mercati internazionali, diciamo che però non è che mi sembra preoccupata più di tanto di questo. Lei ha dovuto far ricorso, il Ministero del Tesoro, alla Banca Centrale, che lei sa non è questo un ricorso che si fa normalmente, le riserve argentine sono circa 45 miliardi. Ma ecco anche perché, lì un altro bello scontro fu. Ecco perché il Fondo Monetario vuol vedere le carte, perché bisogna vedere di questi 45 miliardi quanti sono pezzi di carta del Ministero del Tesoro che deve questi fondi poi alla Banca Centrale. Ha praticamente nazionalizzato il fondo pensioni, da cui ha rilevato poi liquidità. Quindi ecco, bisogna vedere bene adesso quando, spero presto, il Fondo Monetario avrà i dati esatti, che cosa veramente rappresenta l'Argentina, perché l'inflazione dichiarata è il 10% ma si sa da studi che sono oltre il 25%. Esatto, guardi, tra l'altro proprio molti ascoltatori me lo stavano segnalando, guarda Deborah, fatti dare le informazioni corrette appunto perché il tasso inflazione intanto, tanto per citare uno dei parametri che potrebbero essere appunto non comunicati correttamente dal governo, c'è proprio anche questo. Thank you. però anche delle canzoni molto romantiche. Stamattina abbiamo preso dei tanghi molto affascinanti per continuare ad accompagnarci nella riproposizione della questione argentina a beneficio dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Subito Orlando, un nostro affezionato ascoltatore, mi scrive tantissimo sulla questione argentina, lui la continua a seguire su ogni versante della stampa internazionale. Orlando, buongiorno. Allora, la convincono tutte le considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento? Quale altro tassello dobbiamo aggiungere a questo mosaico? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io da un punto di vista generale mi sono convinto negli ultimi 11 anni che l'Argentina viva una stagione molto lunga di illegalità, sia sul diritto alla proprietà e di responsabile e di risposta alle sue obbligazioni. Quello che mi preoccupa è il comportamento di neutralità delle nostre istituzioni, che procede e che procedono portando per mano quello che ritiene un bimbo discolo, e invece non è un bimbo discolo. Forse un'azione pratica come la fuoriuscita dal G20, un blocco di incentivi economici, rapporti diplomatici meno arrendevoli, era dovuta a queste migliaia di cittadini che sono stati trascinati in questo default libertino. Un paese può cadere in un default, ma quello che è inaccettabile è il modo libertino utilizzato dagli argentini per non arrivare a soluzione equa. Essi si vantano di aver tagliato le unghie alle usurai, per la maggior parte che sono pensionati e lavoratori. Noi restiamo oltretutto basiti di fronte alle sentenze esecutive ottenute dai privati, che vengono respinte senza tanti fastidi. Più di 53.000 italiani, prima erano 60.000, non hanno ceduto al ricatto e hanno continuato a chiedere giustamente il rimborso. Lei sta perseguendo l'arbitrato internazionale, Orlando? Io sono a mezzo, perché sono stato coinvolto sia personalmente sia con i familiari, quindi... Io ho dovuto concambiare perché sono argentino, però i miei parenti stanno proponendosi con TFA, quindi speriamo qua. Adesso stiamo chiedendo giustamente questo rimborso integrale di quanto prestato, utilizzando della TFA preceduta dal dottor Stock. Di fronte al mondo sappiamo che la controparte non ha nessuna volontà di pagare. Speriamo nei buoni risultati di questa azione legale che TFA. E infatti, perché li vogliono obbligare aggredendo i loro beni in giro per il mondo. Orlando, devo salutarla solo perché ci mancano 5 minuti prima di concludere. Ho un altro ascoltatore, voglio fare un giro rapido di chiusura con Roberto Darin e Nicola Stock, se riesco. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Grazie per l'opportunità. Volevo segnalare quello che mi è capitato. Io sono uno degli irriducibili con la mia banca. Io ho dovuto lasciare aperto per forza il conto corrente, chiamando più volte i funzionari che non hanno trovato il sistema per farmi chiudere il conto. Perché ancora ho ancora titoli, i tango bond. Esattamente, deposito io sono titoli. Uno degli irriducibili, esatto. Esatto, quindi non mi hanno fatto chiudere finché si è prosciugato il conto, chiaramente, con le spese eccetera eccetera. Adesso mi hanno chiamato a rapporto, io non sono ancora stato, però è veramente una beffa quello che è successo. Ma questa tra l'altro è veramente una questione che si ripropone ogni volta che c'è un crack di vario genere, perché anche con Parmalat e Ciri è successa la stessa cosa, a società appunto fallite, quindi portafogli titoli senza più alcun valore, però la banca è nell'impossibilità di chiudere questo rapporto. Ma questa è un'altra questione, però Marco ha fatto bene a ricordarcela. Roberto Darin, allora, avevi qualche osservazione da fare rispetto alle puntualizzazioni sulla trasparenza della comunicazione delle proprie statistiche economiche dell'Argentina verso l'esterno, su alcune considerazioni fatte dal dottor Stock? Allora sì, è vero, l'Argentina ha truccato alcuni dati statistici, ad esempio quelli dell'inflazione. Io sono tra le vittime, nel senso che nei lunghi anni in cui ho vissuto in Argentina, fino a pochi mesi fa, il mio stipendio non è stato indicizzato, nonostante ci fosse un 30%, quasi 30% di inflazione all'anno. E quindi, che cosa ti dicevano ogni anno? Che invece l'inflazione era ad un tasso inferiore? No, il tasso ufficiale che l'INDEC, che è l'omologo del nostro Istat, comunica è attorno all'8-9%, ma naturalmente chiunque viva a Buenos Aires o in altre città argentine sa benissimo che l'inflazione è vicina al 30%, e questo poi è stato confermato e ratificato da tutti gli istituti di ricerca economica autonomi, indipendenti. Quindi ciò che dice il dottor Stock a proposito di questo dato è vero. Non è vero invece il fatto che il PIL sia stato manipolato. Ecco, non ci sono dubbi neppure da parte degli istituti indipendenti, decisamente antigovernativi, che il tasso di crescita del PIL sia corso quanto è corso. Questo, sia chiaro, non vuole essere una difesa dell'Argentina. Io cerco, come avete ascoltato, in modo puntuale, di modo giornalistico più possibile, di mettere sul piatto le questioni come stanno. Però dovrei ricordare al dottor Stock, che naturalmente attende ricorso la decisione finale dell'ICSID, che coinvolge più di 50.000 risparmiatori italiani, e quindi a tutti noi, a tutti loro, va il nostro augurio di una soluzione interessante. Però mi sembra che vada ribadita e ricordata una cosa grave che tutti i giornali italiani hanno pubblicato anni fa, e cioè che le banche, che vi è stata una grossa responsabilità anche delle banche italiane, che allora nel 2001-2002 hanno in alcuni casi venduto a risparmiatori titoli già in default. Questa è una cosa purtroppo gravissima che è accaduta e che tutti hanno riportato, e che ora però molti anni dopo a volte fingiamo di dimenticare. Beh, diciamo che poi comunque il fatto che sia stata proprio l'ABI a farsi portatrice di questa iniziativa, di questo arbitrato appunto internazionale, forse anche, non dico mostrato consapevolezza di una sorta di riconoscimento di responsabilità, però forse vediamola anche in questa maniera. Dottor Stock non sarà d'accordo, però noi un pochino la vediamo anche così. Detto questo, Presidente Stock, abbiamo 2 minuti di tempo prima dei saluti, un ultimo messaggio finale ai nostri ascoltatori, questi 53.000, magari anche agli altri, che cosa vogliamo dire, quando potremo avere notizie da Washington definitivamente? Sì. Ecco, quando finiranno di controllare tutti i documenti? Ogni volta che ci sarà qualcosa sul ricorso, per cui io posso pubblicizzarlo, perché io sono vincolato alla confidenzialità di quello che succede, fin tanto a meno che viene pubblicato anche dell'ICSID, allora in quel momento posso dirlo anch'io, ma se no sono purtroppo vincolato. Ma su quali sono i passi eccetera, noi li mettiamo sempre sul nostro sito e naturalmente informo i nostri ascoltatori. Ora, il fatto delle banche, non voglio entrare perché io sto difendendo gli obbligazionisti e non le banche, qui vorrei chiarirlo. E se ci sono, come Marco dice, qualche cosa che le banche, se mi può magari far avere qualcosa che io magari fa un controllino per vedere se questo conto titoli si possa chiudere, può comprendere. Però no, è una cosa naturalmente grave, se posso aiutarlo. Mm-hmm. Però al dottor Darin devo ricordare, lei l'ha detto all'inizio, che lui ricorda felicemente i suoi momenti argentini. No, almeno lo credo, l'ho interpretato io liberamente, però credo che Roberto sia stato bene. L'Argentina è il debitore, questo forse si dimentica, che è stato un caso unico di un debitore, naturalmente, che ha ristrutturato unilateralmente. Io non ho mai incontrato i ministri argentini che ho visto, ma mai per poter dire mettiamoci, vediamo che cosa possiamo fare. Nei 400.000 obbligazionisti italiani c'erano anche non solo la Repubblica Argentina, ma c'era la provincia di Buenos Aires, la città di Buenos Aires, che hanno tutte ristrutturato pure, che sono state tutte ristrutturate. Mm-hmm. Quindi è l'unico inadempiente l'Argentina, che poi putacaso è anche un membro del G20. Allora, noi dobbiamo chiudere qua la nostra trasmissione, abbiamo fatto il punto della situazione, speriamo di non doverne ritornare a parlare, speriamo che Griesa non si rialzi un'altra volta con un'altra decisione clamorosa e dirompente per tutta la comunità finanziaria internazionale. Io intanto ringrazio Roberto Darin, l'avvocato Paolo Fiorio per essere stati con noi, e Nicola Stock. Salvadanaio torna lunedì, proseguiremo ancora il nostro cammino per la riforma del mercato del lavoro. A tutti buon fine settimana.